L'altra domenica ho un po' raccontato su Facebook quello che avevo fatto. Al mattino 3 messe, 2 in una parrocchia, 1 in un'altra, perché ho 2 parrocchie, e poi mi sono un po' fermato alla fine della mattinata a parlare con un po' di persone, poi di corsa a casa per il pranzo, poi ancora nel pomeriggio qualche impegno in parrocchia, un rosario, e alla sera mi sono diretto, sempre un po' di corsa, verso l'eremo di Varazze, dove mi sono fermato con i frati qualche giorno per un tempo di ritiro, di solitudine e di preghiera. E andando là ascoltavo dei podcast durante il viaggio a doppia velocità per risparmiare tempo. Sono arrivato, era l'ora della cena, mi sono messo con i frati intorno al refettorio e loro hanno incominciato la preghiera nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Padre nostro, e io, Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Poi mi sono accorto che loro erano ancora al Padre nostro che sei nei cieli. Insomma, andavano molto più lento. Dopo una giornata a 100 all'ora, l'impatto con la vita dei monaci mi ha fatto rendere conto come la nostra vita molto spesso è molto più veloce di quanto dovrebbe essere in modo naturale, in modo sereno. Purtroppo è così. E allora, dopo aver scritto questa cosa qui su Facebook, tantissimi di voi hanno lasciato moltissimi commenti. Ne vorrei condividere qualcuno con voi, perché avete tirato fuori tantissimi suggerimenti sul perché anche nella comunicazione forse dovremmo imparare ad essere un po' più lenti. Avete risposto in più di 50 e molti di voi, la stragrande maggioranza, ha scritto di essere più fast che slow. In tanti avete scritto che è importante comunicare a velocità di passeggiata e non di gran premio, perché la comunicazione è un fatto di cuore, è un fatto di sguardi, è un fatto soprattutto di sintonizzazione sulla velocità dell'altro. Quante volte noi siamo veloci, magari abbiamo quel concetto, quell'idea, che però ce l'abbiamo dentro perché in realtà ci stiamo rimuginando magari da una settimana, un mese, un anno, e nel momento in cui noi quella cosa ce l'abbiamo chiara, e beh, ci sembra ovvio che anche per l'altra persona sia chiara, dimenticandoci però tutto il cammino che ci ha portato a quel traguardo. Ecco allora un primo motivo per cui bisogna rallentare, perché non è detto che quello che tu hai acquisito, magari nel tuo rapporto con quell'altra persona, e l'altro l'abbia già acquisito, magari lui ha bisogno invece di rifletterci, di meditarci, di assimilare quella cosa piano piano. E allora ecco l'importanza di essere lenti e pazienti nella comunicazione con gli altri, soprattutto quando riguarda fatti interpersonali di relazione con l'altro. Altra riflessione importante viene da Francesca, la quale ha scritto che noi a volte nella comunicazione siamo in imbarazzo perché abbiamo paura di non essere capiti, di non essere ascoltati, e allora magari acceleriamo proprio per uscire il prima possibile da quella situazione di imbarazzo, di difficoltà. Solo che capite che questo è un po' un paradosso, no? Abbiamo paura di non essere capiti, allora velocizziamo per l'agitazione, ma questo a che cosa può portare se non ad ulteriori incomprensioni? Corriamo per uscire da quella zona di disagio, è solo che magari ne usciamo da soli e non riusciamo a portarci dietro l'altra persona che sta ragionando insieme a noi. Emanuela dice poi che noi a volte andiamo veloci perché abbiamo paura di non essere ascoltati per intero, e allora cerchiamo di fare presto, sperando così di riuscire a dire tutto quello che avevamo in mente. E Roberta aggiunge un'altra riflessione molto profonda: a volte siamo veloci perché siamo più interessati a dire che a far capire. Siamo più centrati su noi stessi, su quello che dobbiamo dire, piuttosto che sulla preoccupazione che l'altro ci stia veramente capendo. Forse è una malattia del nostro ego. Anche nella comunicazione noi ci mettiamo al centro e pensiamo che l'io sia il protagonista della comunicazione. Ci dimentichiamo che invece nella comunicazione il protagonista non sono io, ma il protagonista siamo noi, io e te, io e gli altri, noi che stiamo comunicando, perché la comunicazione non è mai un fatto unidirezionale. C'è qualcuno che parla, che trasmette, ma c'è qualcuno che riceve e che trasmette a sua volta. E allora che senso ha andare di fretta, andare veloci e avere l'ansia di comunicare tutto il possibile senza avere invece prima l'ansia e l'accortezza di cercare di accorgerci se veramente è quello che noi stiamo dicendo sta arrivando a destinazione? E per fare questo occorre pazienza, ancora una volta occorre lentezza e rallentare. Ornella suggerisce poi che la fretta rischia di sacrificare l'ascolto. Più siamo veloci e meno siamo disposti ad ascoltare, verissimo. E sempre riguardo ad un ascolto profondo, Silvana dice invece che se riusciamo a rallentare, riusciremo anche a guardare e a farci guardare negli occhi. Sì, perché lo sguardo è importantissimo, fateci caso. Quando si è veloci, si tende già ad essere altrove e allora è difficile che ci sia una vera sintonizzazione del nostro sguardo con lo sguardo dell'altro. Anna Maria e Carmela poi ci fanno infine intendere che se rallentiamo saremo anche più propensi, aperti a comunicare con il nostro io più intimo. E la lentezza ci aiuterà anche a pregare e a comunicare con Dio in maniera più profonda. Insomma, tantissime riflessioni che ci fanno veramente capire che se rallentiamo la nostra comunicazione non potrà che averne un grandissimo giovamento. Insomma, tu che ne pensi? Scrivi anche tu il tuo commento qui sotto, così allarghiamo ancora il discorso. E poi c'è un'altra cosa che però devi fare velocissimamente, subito. Iscriviti al canale e condividi questo video con tutti i tuoi amici. Dai, forza, forza, fallo subito, veloce, veloce.